Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, questa sera parleremo di Moovit, azienda americana che sta investendo in un'app decisamente ambiziosa. Come sentirete in questa intervista realizzata da Federico Pedrocchi con Alex Torres, che per Moovit dirige gli sviluppi internazionali. Su questa azienda, tra l'altro, stanno arrivando finanziamenti davvero consistenti, cifre oserei dire da capogiro se pensiamo che si tratta di sviluppare un'app. Sentiamo. Sono qui con Alex Torres, che è vicepresidente dell'area Global Marketing di Moovit. Sta arrivando un tram, sono in una via di quelle della circonvallazione di Milano, è arrivato il tram numero 3. Alex, però quanti saranno i numero 3 fra tram e autobus nel mondo? Migliaia, migliaia. Noi potremmo essere a una fermata del numero 3 in centinaia di città del mondo, e voi avete un'application di cui adesso parliamo che mi dice quanto tempo arriverà, ci metterà a arrivare il prossimo tram, insomma mi dà le famose informazioni cruciali sul traffico. In quante città del mondo adesso? Adesso siamo a 500 città in 50 paesi, perciò è un numero molto interessante. E puntate a crescere? Sì, di fatto l'anno scorso eravamo solo in 300 città, 250, e alla fine abbiamo praticamente duplicato il numero di queste città a tutto il mondo. Alex gira per il mondo, è però basato a San Francisco, parla benissimo italiano. Adesso ci spostiamo in un posto più tranquillo per parlare di Moovit, va bene? Eccoci Alex, adesso siamo più tranquilli. Voi vi appoggiate ai sistemi di servizio per i mezzi pubblici che ci sono in ogni città, magari anche le migliorate? Qual è la vostra relazione con quanto c'è e poi dove non c'è? Noi crediamo nella possibilità e pure sul bisogno di lavorare insieme con le autorità locali che hanno l'accesso a questa informazione. Noi chiamiamo, sono dei dati statici, queste sono le fermate dell'autobus, la frequenza e tutti questi dati, e noi lavoriamo con queste autorità locali, che può essere per esempio il caso del comune di Torino, che abbiamo lanciato l'app settimana scorsa, e lavoriamo insieme per lanciare il prodotto e lo miglioriamo con l'aiuto della nostra comunità. Quindi fate anche un intervento sui sistemi esistenti. L'altro elemento valore aggiunto è che io girando, insomma ormai non solo i businessmen ma tanti girano, ho sempre la stessa interfaccia ovunque io vada. Ecco, il dato assolutamente notevole è che c'è un investimento di 52 milioni di dollari, questa è la cifra, su questa app. Non so se avete deciso anche di comprare i tram, così il servizio è ancora più preciso. 52 milioni su un oggetto di questo genere sono veramente qualcosa che non si era mai visto. Volete investirli anche in cose nuove oppure nel migliorare quello che ci hai appena detto? Questi 50 milioni di dollari che abbiamo ricevuto dai nostri investitori verranno usati di una maniera più per l'utente finale. Questo significa che miglioreremo l'app, le funzionalità del prodotto e pure sviluppare altre possibilità per gli utenti, eppure la possibilità di lanciare il prodotto in altri paesi dove non siamo presenti. Diciamo, parliamone del caso dell'India o del Giappone, che il nostro prodotto non è stato ancora lanciato, perciò lavoreremo prima per lanciare il prodotto in nuovi paesi e dopo per approfondire in quei paesi dove già abbiamo il prodotto, nel caso dell'Italia che siamo l'app numero uno del trasporto pubblico locale per il numero di città, e vogliamo certamente lanciare il prodotto in nuove città. In Italia in quante città siete al momento? Più di 20 città al momento nell'Italia, e sempre ci fanno la stessa domanda: quante città vorresti lanciare? Ovunque città, per noi ogni città dovrebbe avere la nostra app, e siamo disponibili alla ora di lanciare questa app. Ecco, questo è un dato importante, cioè una città che sta per iniziare questa cosa, che vuole metterla in campo, può contattarvi per fare al meglio il lavoro e non aspettare di farla da soli? Certamente, siamo veramente disponibili e siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione, partnership. Ci possono contattare tramite il nostro sito web mobidab.com. Va bene anche per stasera, abbiamo concluso. Grazie a Federico Pedrocchi ed Alex Torres. Appuntamento a domani.